La regione che ha avuto il calo maggiore di partecipazione rispetto alle elezioni regionali precedenti è il Lazio, meno 10% di media, seguito dalle altre regioni, meno 7, meno 8, meno 6. Le regioni che hanno avuto il calo minore sono la Campania e la Basilicata con il meno 4%. Attendiamo i dati di affluenza delle quattro regioni che gestiscono direttamente le operazioni, che potrete consultare sui loro siti. Questi sono i dati pressoché definitivi delle nove regioni i cui dati vengono gestiti direttamente dal Viminale. Diretta per lo speciale elezioni del TG1, posso chiederle come interpreta questa flessione che c'è stata notevole delle persone che hanno scelto di andare alle urne e di votare per queste regionali, il tipo di campagna elettorale che è stata fatta forse? Ma lascio ai politologi il compito di spiegare, io prendo atto che c'è stata una riduzione che è diversa da regione a regione, come ho detto. La riduzione maggiore nel Lazio probabilmente è dovuta anche alle vicende che conosciamo per la lista PDL di Roma, una riduzione inferiore nelle regioni, in alcune regioni la metà di altre. Sono dati interessanti da studiare, da valutare. Dobbiamo fare in modo che la partecipazione democratica però cresca alle prossime elezioni. Questo è un compito di tutta la classe politica, io credo, senza distinzione tra governo e opposizione. Abbiamo davanti a noi un percorso nei prossimi tre anni in cui dovremo fare di tutto perché la partecipazione torni ad essere quella che tradizionalmente è in Italia, cioè la più alta d'Europa.